passano qui davanti a me, gli occhi imbambolati come noi tanto tempo fa, quanto ci siamo amati. Ma com'è difficile volersi bene e poi vivere in due. Ma com'è difficile vedere giusto dentro gli occhi. Volano le parole che poi ti senti bene, come noi tanto tempo fa, piccole catene. Ma com'è difficile sbagliare tutto e poi ricominciare. Ma com'è difficile se vince poi l'orgoglio che c'è in noi. Ricomincerò domani, camminerò sul vento tiepido dell'est e mi laverò le mani a ogni fontana nuova, un nuovo amore. E se domani un fiore nascerà, lo bagnerò con acqua chiara. Dicono, dicono di noi e del mondo intero favole per tanti anni e poi sembra quasi vero. Ma com'è difficile e pensare che una stella lontana. Ma com'è difficile è una piccola parte di noi. Ricomincerò domani, camminerò sul vento tiepido dell'est e mi laverò le mani a ogni fontana nuova, un nuovo amore. Se domani un fiore nascerà, lo bagnerò con acqua chiara. Quanto ci siamo amati, ma com'è difficile volersi bene e poi vivere in due. Ma com'è difficile vedere giusto dentro gli occhi tuoi. Ma com'è difficile vedere giusto dentro gli occhi tuoi.